molto contento ovviamente della squadra che ho fatto, e quindi non, la squadra è quella che volevo, e ovviamente sono dispiaciuto di non potermi giovare della collaborazione in giunta di tante altre persone di grande valore che, di cui mi è dispiaciuto dovermi privare nella composizione. Parte una squadra nuova che è fatta di una presidente, di una squadra di giunta, che è fatta di una assemblea legislativa con gruppi assembleari della nostra coalizione molto forti e molto strutturati e con grandi competenze al loro interno, ed è fatto ovviamente anche di apporti che verranno da tutte le forze della coalizione, anche da quelle che non sono rappresentate in consiglio e che saranno parte del processo decisionale. La giunta nella sua composizione dei 10 membri è paritetica, ha 5 uomini e 5 donne, e nella composizione dei 10 assessori più della scelta della sottosegretaria ha 6 donne e 5 uomini. Per me il principio di parità era un principio importante nella composizione della giunta, e rispetto a 5 anni fa passiamo da un 7 a 4 a un 5 a 6 nelle 11 nomine che annuncio oggi. Leggo i nomi, oggi vi dico le deleghe per titoli, poi all'atto della nomina della giunta le deleghe verranno precisate in maniera più specifica nell'atto di nomina, tema per tema. Oggi vi do i titoli. Parto dalla vicepresidenza: vicepresidente e assessore a sviluppo economico, green economy, energia, formazione professionale, università e ricerca, Vincenzo Colla. Assessora a cultura, parchi e forestazione, pari opportunità, Jessica Allegni. Assessore a programmazione strategica e attuazione del programma, programmazione fondi europei, bilancio, patrimonio, personale, montagna e aree interne, Davide Baruffi. Assessora a welfare, terzo settore, politiche per l'infanzia, scuola, Isabella Conti. Assessore a politiche per la salute, Massimo Fabi. Assessora a turismo, commercio, sport, Roberta Frisoni. Assessore a agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, rapporti con l'Unione Europea, Alessio Mammi. Assessora a agenda digitale, legalità, contrasto alla povertà, Elena Mazzoni. Assessore a politiche abitative, lavoro, politiche giovanili, Giovanni Paglia. Assessora a ambiente, programmazione territoriale, mobilità e trasporti, infrastrutture, Irene Priolo. Sottosegretaria alla presidenza della regione, Manuela Rontini. Io trattengo alcune deleghe molto importanti, molto rilevanti, è una scelta politica precisa, e la sottosegretaria Rontini mi coadiuverà, lavoreremo insieme su queste deleghe, tutte quelle afferenti alla protezione civile, al contrasto al dissesto idrogeologico, difesa del suolo e della costa e alla gestione della ricostruzione post alluvione di maggio scorso. Questo è un tema molto rilevante, è una responsabilità molto forte per la nostra terra, è quella che sento più di tutte, è quella che sentiamo più di tutte, è anche un messaggio chiaro che su questo tema ci metterò la faccia in prima persona, non ci sposteremo di un millimetro, nei prossimi giorni vedremo anche la Presidente del Consiglio per confrontarci su questo, però su questo tema ci sarà un mio impegno diretto.